avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un. Devo dire, e non so quanti uomini questa mattina potranno confermare la mia impressione di star rischiando la frigidità cerebrale, la castrazione emotiva totale nei confronti dell'universo femminile, che sì, mi ha molto incuriosito nel corso della mia esistenza. Sono reduce da ultimo, ennesimo e lacerante dibattito sul corpo delle donne avvenuto ieri sera in un programma televisivo, in cui vado più peraltro per curiosità, un po' per la constatazione di un atroce memento mori. Ogni volta uno si guarda e si vede in televisione, si rende conto dell'inesorabile tempo che passa, ma si rende conto anche del tempo che passa sulle opinioni, sui modi di pensare, sulla freschezza di pensiero, su quello che si pensa il cammino degenerativo di ogni luogo comune. No, in realtà stiamo santificando, celebrando, mettendo sugli altari il più trito luogo comune che riguarda il rapporto fra uomini e donne. E sì, che sarebbe una cosa semplicissima: da una parte sono gli uomini, da una parte sono le donne, si guardano, si piacciono, non si piacciono, se non si piacciono si evitano, se si piacciono si inseguono, si cercano, si incontrano, si provano, si sperimentano, si lasciano, si amano tutta la vita, si lacerano sentimentalmente, fanno insomma quello che vogliono. Invece oggi il piano è spostato su un terreno che nulla più a che fare con il reale protocollo d'intesa nel rapporto fra uomo e donna. Siccome la politica, l'ideologia ha inquinato quello che in fondo era il più rilassante terreno in cui un essere umano potesse appoggiare le sue stanche membra dopo fatiche, pensieri e cure, che è quello dell'attrazione, della seduzione, del riconoscimento dell'alterità in un altro essere umano, e quindi dobbiamo ancora una volta parlare di quanto siano oltraggiate le donne nelle immagini, nella pubblicità, nella televisione, chi sia il capostipite di questo oltraggio, quali siano gli uomini che stanno alla parte delle donne, che sono quelli buoni, quelli bravi, quelli carini, quelli da tenere in considerazione, i cattivi uomini che dicono: ma in fondo a me cosa me ne importa, le donne facciano quello che vogliono, si vestano, si svestano, facciano i testimonial pubblicitari anche delle motoseghe se vogliono, saranno fatti loro, cosa me ne importa. Non esiste il mondo delle donne e il mondo degli uomini, esiste il mio mondo e il mondo della persona con cui mi incrocio, in cui mi incontro, con cui ho dei fremiti, delle passione, comunque delle aree di interesse comune. Beh, detto questo, questa mattina vorrei continuare a parlare ancora, se possibile, in maniera lacerante, in maniera sempre meno appassionata, del rapporto fra uomini e donne. Lo faccio attraverso un ennesimo approccio. Abbiamo parlato delle donne mafiose l'altro giorno, abbiamo più volte parlato delle donne che scendono in piazza, abbiamo parlato di tutte le possibili fattispecie, tutte le sfaccettature, tutte le sensibilità, dagli odori, dai sapori, dai modi d'essere, dalle convinzioni, dalle relazioni, dai lasci, dagli uomini che puzzano, le donne che sono di tutte le possibili e immaginabili categorizzazioni possibili. Questa mattina tento un ennesimo e disperato tentativo di parlare del rapporto fra uomo e donna, che secondo me sarebbe semplicissimo nella sua articolata complessità, ma la complessità da corpo e forza all'elemento seduttivo, e sedurre non significa mortificare una persona, non significa farla schiava di se stesso, sia semplicemente prenderla, attrarla in una propria area di esistenza e condividere assieme momenti, istanti o l'intera vita. Ma visto che questo oggi fa parte dell'eresia, fa parte della blasfemia, oggi lo vorrei dire con le voci delle donne. Uno dei generi letterari che va più in voga sono le donne che scrivono manualistica sui rapporti fra uomini e donne. Va anche questa sorta di ventaglio espressivo della femminilità o del desiderio di trovare delle forme di rapporto coerenti fra uomini e donne in una vastissima gamma di possibilità. Dalle donne fanno quei manuali perché gli uomini sono stronzi, perché gli uomini sono deficienti, perché gli uomini sono scoglionati, e dicendo, fino a quelle che in maniera lievemente meno aggressiva e meno virulenta cercano di mettere delle regolette stupide, banali se volete, o già dette, o anche con dei margini di originalità, per ristabilire timidamente una sorta di nuovo protocollo nel rapporto fra uomini e donne. Questa mattina darò voce a due di queste donne, e questa mattina, ben munito di una caterva libri infami, gratificherò quante ascoltatrici e ascoltatori mi daranno delle loro regole, se possibile, per ristabilire una maniera serena, se volete lacerante, ma questa lacerazione fa parte della piacevolezza, di definire una nuova maniera di rapportarsi fra uomini e donne, senza che necessariamente ciò sia connotato, lacerato, inquinato dall'ideologia. 800 24 0024. Ciao, sono Phoenix di diventaseduttore.com. In questo video ti spiego tre efficacissime tecniche di abordaggio. Come ben sai, conoscere ragazze non è facile. Ti sarà sicuramente capitato tante volte di non sapere come attaccare bottone. E allora, ecco come. La prima tecnica è la tecnica dello sguardo. Questa qua è una delle tecniche all'inizio ti richiederà un po' di allenamento. Devi trovarti innanzitutto ad almeno 5 metri dalla ragazza. Inizia a guardare la ragazza negli occhi. Non guardarla strabuzzando gli occhi o uno sguardo strano, perché sennò farai una pessima impressione e le farai paura probabilmente. Guardala come guardassi il tuo migliore amico. La guardi negli occhi per circa 30 secondi. Non troppo poco, ma neanche troppo tanto. A questo punto vai da lei e le dici: allora? Così, tranquillo. O puoi dire qualunque altra cosa in realtà. Però parti con: e allora? Cos'è da guardare? Vedrai che molte volte usciranno delle... Povero Phoenix, pensate ai calci in bocca che sarà preso, anche perché tutta questa sua tecnica di seduzione che lo illustra su YouTube, basata sul gioco di sguardi, a me si rende piuttosto difficile e difficoltosamente realizzabile dal fatto che abbia dei pesanti occhiali scuri. Quindi come farà Phoenix a giocare con lo sguardo nelle sue tecniche di abbordaggio? Si può mettere gli occhiali neri, che sì, danno carisma probabilmente, danno un senso di misteriosa distanza o di uomo da scoprire, ma in realtà aggiungono poco. Ora, questo ragazzino che, poverino, ci prova, mette su YouTube alcune sue arraffazzonate, arronzate, teoriche maniere di abbordare le donne, in sé ha un principio di sanità, in fondo è sano, in fondo non si pone il problema, in fondo cerca in maniera disperata, se volete, anche piuttosto puerile, ma sanamente e coerentemente tesa a rilanciare comunque un rapporto, di inseguire le donne, di abbordare. Abbordare le donne, quindi consiglia le donne ancora come una sorta di nave da saccheggiare, e lui si sente in qualche maniera pirata, si sente corsaro, si sente uomo ancora alla caccia delle donne, una sorta di probabilmente frainteso senso di complicità, nell'illusione che le donne non aspettino altro che di essere abbordate. Ma è così, non è più così. Io raccolgo un'infinità di testimonianze, di confidenze di donne, alcune per motivi professionali, altre per le mie frequentazioni. Mi piace molto parlare, mi piace avere una maniera disinibita e immediata di stabilire rapporti confidenziali con le persone, soprattutto con le donne. Mi affascina molto il punto di vista delle donne sulla realtà. Trovo che sia interessante vedere la realtà con un occhio diverso, e quando la donna è filtro importante nei confronti di aspetti diversi della realtà, una donna assume un grande valore. Ma è questo che le donne si aspettano, al di là delle proteste, al di là delle rivendicazioni, al di là delle richieste di dignità, al di là dell'odio abbastanza ottuso nei confronti di quelle donne che hanno in qualche maniera tradito una corretta e retta rappresentazione della femminilità, che si gonfiano, si bombardano, si levigano, si mostrano come degli oggetti plastificati su una sorta di supermercato. Però anche loro hanno diritto di esistenza, anche loro sono donne, che loro non possono essere messe in dei campi di rieducazione. Ecco, cos'è che vogliono le donne dagli uomini? 800 24 0024. Carla, buongiorno. Sì, buongiorno. Grazie, no, che mi dai modo di respirare, perché sennò devo riempire il vuoto finché qualche donna non chiama. No, io sono una donna, chiamo, e la mia domanda però era diversa. Cosa vuole un... cioè, sembra una domanda molto banale, invece credo che sia una domanda a cui si debbano dare molte risposte. No, ma facciamo una cosa, Carla, un patto iniziale. Abbandoniamo ogni reticenza, diciamo esattamente quello che sentiamo dentro. Io mi metto in gioco totalmente, lo faccio anche lei. Allora, cosa vuole un uomo da una donna? Vuole un uomo da... può rispondere lei? Sì, io se le posso. Ma certo, per la piccola parte residuale che ancora posso sentirmi un uomo, le rispondo. Un uomo da una donna vuole l'immensa gratificazione innanzitutto di essere considerato. Quando un uomo è considerato una donna, si sente toccare il cielo con un dito. Questa è la prima cosa. Questa è la prima cosa che le posso dire. Quando una donna ti guarda, quando una donna ti desta attenzione, poi quando una donna ti accarezza con lo sguardo, ti considera anche come un corpo, come qualcosa di organicamente palpitante, non soltanto per un ruolo che devi avere, sei ancora più contento. Improvvisamente diventa primavera, anche se ci troviamo al 31 dicembre. Questo dico, l'ho detto a braccio, senza pensarci. E lei invece, cosa vuole da un uomo? Diciamo anche la stessa cosa. No, non vale, non può copiare me. No, non posso copiare. Deve dire esattamente allora, quello che è. Beh, io mi voglio sentire una regina per quell'uomo. Io mi voglio sentire la cosa più importante che esista. Per sempre e in ogni situazione. Solo per sempre. Il per sempre è una condizione indispensabile, Carla? Sì, è una condizione indispensabile. Perché io credo che un uomo... E questo è quello che uno sogna, poi dopo naturalmente la realtà è diversa, però se io devo dire il mio desiderato, quello che io veramente cercherei, è un uomo che ti metta al di sopra di tutto e di tutto e che sia disposto a fare qualunque cosa per te. Ma mi sembra lecito, mi sembra che le due cose coincidano però. Sì, però io non sono d'accordo su quello che ha detto lei. Ma lei mica è un uomo, che ne sa? No, ma perché io da donna, cioè da oggetto della vostra attenzione, non recepisco questa cosa. Io credo che invece un uomo non sappia cosa vuole da una donna. Io lo so, io ho detto, lo so, da parte mia. O quantomeno tante volte cerca continuamente cose diverse da una donna. Ma è chiaro che poi esiste una gamma infinita per raggiungere lo stesso scopo, ma lo scopo è quello di esistere. Più o meno è quello che dice lei. Lei dice voglio essere la regina, è giusto. Un uomo vuole far sentire la donna sempre la regina, ma anche non necessariamente se ciò è causato o determinato la necessità di avere un rapporto fisico, una relazione, anche semplicemente in uno scambio di battute allo sportello delle poste. Non dico l'uomo deve essere sempre provolone, seduttivo, ma dare in quel momento l'idea che per lui non è indifferente incontrare una donna. Non è la stessa cosa che incontrare un cane barbone o incontrare un collega d'ufficio, incontrare un qualsiasi altro uomo. Incontrare un uomo, una donna ha sempre qualcosa in più. Ecco, vedi che però già ci troviamo su un piano che non è vero che la gratificazione sta nella omologazione del contatto. Una donna comunque vuole essere riconosciuta quanto donna e l'uomo alla stessa maniera. All'uomo piacerebbe non essere indifferente a quella donna, quindi vede che l'aspetto seduttivo in una gamma, se vuole, sfumatissima, anche innocente, anche non finalizzata a nessuna prosecuzione del rapporto, è fondamentale, una scintilla che quando l'uomo e la donna si incontra deve comunque scattare. Sì, senz'altro, questo capita sempre, è assurdo dire che un uomo e una donna non mettano in gioco la seduzione, capita sempre, in qualunque caso, anche in un rapporto di lavoro, anche tra persone perfetto. Di età completamente diverse. Siamo perfettamente d'accordo, io sono grato a Carla che mi ha dato modo di iniziare e sono talmente grato, Carla, con lei che non potrei fare a meno di gratificare nella modestissima maniera che io in questo momento ho a disposizione la gratitudine per il suo contributo. Complimenti! Hai vinto un libro infame! Sarà l'orgoglio della tua biblioteca! A Carla, che mi ha dato mirabile maniera di esprimere il punto di partenza di questa difficile e perigliosa chiacchierata sul fatto che in realtà la seduzione sia l'elemento fondamentale nel rapporto fra uomo e donna, e quando l'uomo e la donna alienano da una scintilla seduttiva, dimenticano di essere uomini e donne e iniziano i problemi, assegno l'indispensabile libro infame di Margherita Giacobino, L'uovo fuori dal cavagno. Non so cosa significhi, ma penso che la renderà felice. Contenta? Sì, grazie. La cavagna in Sicilia è contenitore delle ricotte, sarà una cosa del genere. Ah beh, perfetto, benissimo, ha a che fare con l'uovo e con la ricotta, quindi ha a che fare comunque con elementi fortemente simbolici nell'aspetto seduttivo, grazie. Se fossi aria mi farei respirare da te, se fossi acqua mi farei bere da te, se fossi amore mi innamorerei per te. Ma non funziona più così, dai, riprovaci. La musica è cambiata, maschi e femmine comunicano, interagiscono ormai in maniera diversa. Volete sapere come? Leggete il mio libro Maionese impazzita e scoprirete la ricetta dell'amore del XXI secolo. Se fossi maionese impazzirei per te. Sì, vabbè. Ciao, Mi scrive su Facebook Ilaria. Non capisco bene la frase, ma riporto tale quale, visto che stamattina non voglio porre nessun freno censorio nelle espressioni delle amiche che mi chiamano e mi scrivono. Poi, quando una donna te la dà, Perché non cerchiamo di inquadrare la questione nella direzione del riduzionismo biologico? Sesso, procreazione, pene vagina, c'è altro? Sì, c'è molto altro. C'è anche quello. Grazie a Dio c'è quello. C'è anche quello con gli stessi elementi che lei ha chiamato in gioco, non necessariamente finalizzato alla procreazione. È normale che il punto, l'apoteosi del rapporto sia quello. Se non fosse così sarebbe tristissimo. Ma esiste una gamma infinita di centellinare comunque l'attenzione che ha un uomo e una donna, senza che necessariamente poi ci si senta costretto, una donna o un uomo, a dover riportarsi su quel piano biologico. Avete sentito questa scheda che mostra un impacciato e terrificante bamboccione che ai giardinetti tenta con antiquate tecniche seduttive carpite da qualche libricino comprato alla stazione richiamare l'attenzione con una simpatica signorina che legge un libro ai giardinetti, e lei gli dimostra che in realtà non è quello il modo. Giorgia Colli, buongiorno. Buongiorno. Giorgia Colli è autrice di questo spot che non è altro che il lancio del suo libro Maionese impazzita, la ricetta dell'amore del XXI secolo, edizioni Fermento. La casa editrice, devo dire, è simbolicamente indicativa di ciò che dovrebbe essere dentro questo libro. Il libro che tu hai scritto per la Fermento, in realtà, cosa dovrebbe dare in più rispetto a tutto quello che abbiamo detto, che ancora non ha un suo canone adeguato alla contemporaneità? Io quando ho deciso di scrivere il libro attraversavo anche un momento particolare della mia vita. Ti avevano appena accannata? No, però ero single da tanto tempo e quindi veramente ne ho visto. Stavi a bocca asciutta da una vita, quindi era il punto. Ma non è anche troppo a bocca asciutta, però diciamo così, io, le mie amiche, insomma, disperate, come dire, ma disperate nel senso che tutti abbiamo voglia, no, di amare, di riuscire anche ad amare qualcuno ed essere riamate, e qui è diventata una cosa difficilissima, cioè la cosa più semplice del mondo è diventata proprio difficile. No, sono contento che mi dai ragione, ho iniziato a dire sarebbe una cosa semplicissima, non vedo quale sia il problema. No, perché indubbiamente è semplicissima, e adesso con la libertà che abbiamo, anche con tutti questi mezzi di comunicazione, dovrebbe in realtà ancora essere più semplice, ma invece no. E qual è il punto, la difficoltà secondo te e le tue amiche? La difficoltà secondo me sta nella paura, anche nella paura della sofferenza probabilmente. Ci siamo dimenticati che comunque l'amore non è solo sofferenza, c'è ovviamente. Allora, la paura della sofferenza, questo è un vecchio discorso. Non te la do perché dopo ho paura di soffrire se tu mi lasci. Cioè, è una cosa. Non è che non te la do, perché tanto oramai, insomma, sì, vabbè, sembra che questa è la cosa più semplice. È non il è default. Questo difficile. Il difficile è aprire il proprio cuore. Io parlo in maniera molto romantica perché io cerco nel libro di rilanciare il valore proprio dell'amore, anche del romanticismo inteso nel corteggiamento, nella pregustazione dell'amore vero e proprio. Allora, diciamo il punto, prima di dare la linea alle informazioni della borsa, il punto nodale è che nessun uomo è più adeguato ad aprire un tavolo seduttivo con una donna, diciamolo in maniera sindacalese, così evitiamo. Anche la donna, e anche la donna, adesso siamo a livello paritetico e quindi ancora, ci sono ancora più problemi, perché non c'è assolutamente neanche più dialogo a livello neanche seduttivo. Quindi siamo un po' bloccati. E quindi come fa? Si arriva subito al sodo, poi dopo ci si sente. Poi dopo ci si sente, da lì diatribe su diatribe. Basta girare anche nei supermercati per dirle, sentire tante ragazze al cellulare che parlano sempre delle stesse cose. Ah, ma non mi ha chiamato, ma perché? Eccetera. Cioè, da lì c'è il muro. Diciamo che il problema comincia dopo. Prima c'è l'intima d'azione, dall'intima d'azione in poi dirà mi chiamerà, non mi richiamerà, nascerà il rapporto, crescerà. Il contrario, no? Più o meno, sì, una via di mezzo, diciamo, proprio tutto il contrario, no? Oppure non bisognerebbe bloccarsi dopo, cioè vediamo come va. Apriamoci all'amore, apriamoci alle Adesso non vorrei sembrarle, ma molti uomini alla fine cercano quello, una volta che lei cercano quello, però non vuol dire che poi bisogna limitarsi a quello, no? Magari sì, può venire altro. Ma può esserci anche solo quello, sa, se è una scelta fatta così diciamo tanto per farla, è normale che poi alla fine non ci siano grandi fantasie, se non c'è stata nemmeno un minimo di fatica, un pochino di peripezia, se una cosa dice vabbè che mi importa, quando la rivoglio ce l'ho qui, o se non è questa è un'altra, ecco. ridotto proprio in termini molto rozzi, così la cosa. Comunque ci sentiamo tra un istante, ci sentiamo con Giorgia Colli, con le tante ascoltatrici che ci stanno già telefonando. Mi fa piacere che questa mattina siamo riusciti a smuovere perlomeno sul piano della sincerità qualcosa che sembra il grande dilemma che attraversi la scena politica, la scena sociale e la drammatica maniera di porsi nei confronti tra uomini, nei confronti reciproci fra uomini e donne. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Infine, l'ultima tecnica è quella del di che segno sei, ma una versione aggiornata. Vai là da lei, le chiedi di che segno sei, qualunque cosa le ti risponda, facciamo Capricorno, te le dici, ah, Capricorno, sai no quello che si dice sui Capricorni? E non le dirai mai cosa si dice sui Capricorni. A quel punto devi guardarla con uno sguardo malizioso quando le dici questo, malizioso, come se lei avesse fatto qualcosa di sbagliato e tu lo sai. Lei vorrà a tutti i costi sapere cosa si dice su quelle del suo segno e perché la stai facendo così. In realtà tu non vuoi dire niente in fin dei conti, nel senso, non sai cosa si dice su quelle del suo segno e quindi puoi inventarti qualunque cosa, e questo è perfetto per avviare una qualunque conversazione. E questo qua ogni tanto lo utilizzo ancora adesso, e soprattutto lo uso su quelle ragazze che mi sembrano quelle che sanno scherzare sulle cose, insomma, no? Che non sono troppo serie, che non prendono le cose sul serio. Grande Phoenix, devo dire che lo sto rivalutando in questo punto. Sì, perché quello che dice in realtà è l'approccio del tipico marpione da suburra, del collega d'ufficio, signore con la giacchetta con le pezze sui gomiti e la camicia sbottonata, o coi pantaloni stretti in fondo, le scarpe gialle, il collo alto e il cravattone, che vuol far colpo sulla segretaria, sull'impiegata, sulla collega, o su quella che la sera riesce a lumare in un ristorante o nella gita aziendale o che incontra per caso. Questa cosa dei segni zodiacali è vero, dovrei, l'ho anche subita molte volte ridendoci sopra. Di che segno sei? Ah, quello che si dice sul tuo segno. Uno subito immagina elefantiache sproporzioni, subito si gonfia d'orgoglio, quando in realtà non vuol dire assolutamente nulla, e vale comunque anche per l'aspetto femminile. Noela, buongiorno. Buongiorno. Cosa dice lei di questo ragazzino che però ha delle tecniche seduttive che in realtà affondano le radici in tradizioni maschili millenari? Beh, direi che con me non avrebbe molta strada. Poverino. Con me non avrebbe molta strada. E invece cosa avrebbe strada con te? Ma secondo me la sensazione di percepire, che poi logicamente è meglio se diventa consapevolezza, di percepire di essere state scelte. Quindi scelte tra tante, scelte con i propri pregi, i propri difetti. Ma scusa Noela, qualsiasi marpione che ti vuol fare la festa, che ti vede al bancone di un bar, ti dà sempre l'illusione che ti ha scelto. Per i primi 5 minuti almeno, finché non vede che non è aria, cambia. Ma si percepisce subito che è proprio un marpione in cerca, che comunque gli sta bene qualsiasi donna che possa anche starci un'ora. E dov'è la differenza? Spiegacelo. La differenza è che un uomo che è in cerca approfitta della donna che su due piedi gli dice ok, va bene, la tua corte l'accetto, mentre una donna che sente la consapevolezza di essere stata scelta capisce che l'uomo apprezza mi permetti, allora, prego. Sei molto ingenuo nei confronti delle gamme infinite alla marpionaggine maschile. Guarda, il vero marpione si finge distrattamente in quel momento colto da te, che lo è distratto per un attimo dall'abisso esistenziale in cui sta sprofondando, o ha un male incurabile, o ha una sofferenza incolmabile. Tu solo sei... In quanto tempo poi ci accorgiamo che è solo marpioneria e che non è qualche cosa di più, diciamo, ragionato, riflettuto? Guarda, sei molto bravo anche dopo 15 anni di matrimonio. Ma veramente? Sì. Allora devo rivedere tutto il mio modo di giudicare. Perfetto, adesso poi mi dici il tuo versante. Te come donna in realtà come ti poni quando hai un obiettivo? Ti poni degli obiettivi? È lecito secondo te che una donna si ponga degli obiettivi? E quali sono i mezzi disponibili, leciti o illeciti, per raggiungere il proprio obiettivo? Beh no, i mezzi sono senza dubbio la sincerità, la sincerità è l'ultimo, scusami, non ci prendiamo in giro. Beh, come fai a essere sinceri? In un atto seduttivo la sincerità è da debellare, da bandire. Come si fa? In un atto seduttivo è da... No, assolutamente no, perché nel momento in cui ci si pone di fronte a una persona bisogna essere sinceri, cioè porsi nel modo in cui siamo e non per come vogliamo apparire. Quindi la sincerità secondo me è indispensabile, altrimenti poi il rapporto giusto può durare un giorno, due giorni, tre, ma non di più, perché beh, qual è il problema, è facilmente scusa? Smascherabile. Beh, tre giorni mi sembra già una buona media per un gruppo. È una buona media. Allora devo rivedere tutto il mio va modo bene di... Noela, guarda, mi fai veramente tenerezza, quindi voglio sì, in questa mattina che questa mattina quasi primaverile anche te, per te sia una giornata di sole. Complimenti, hai vinto un libro infame. Colmerà il vuoto dei tuoi scaffali. Alla tenera ascoltatrice Noela, che pone la sincerità come elemento di base di ogni seduzione e per questo rimarrà zitella tutta la vita, a meno che non cambierà, do il libro infame, che è la decima volta che lo do e non so perché mi ritorna sempre in mano, ma io sono in questo molto insistente. Cipolle a colazione, identità locale e immigrati a Porto Maggiore e Argenta. Non so perché nessuno vuole questo libro, edito dal Mulino, che è un libro fondamentale. Io spero che ti sia propizio, Noela. Arrivederci, Daniela. Daniela, buongiorno. Salve. Sei senza parole? Che voce sexy che hai. Vabbè, non mi seduce sta cosa, sono altre cose quelle che smuovono. Sì, non è, però è così. È come dire a un muratore che belle mani sporche di calcina, o dire, non lo so, a un fabbro ferraio che bei segni di fuligine che hai addosso, non è questo. Dovresti dirmi, hai una muscolatura scattante, i tuoi bicipiti mi fanno impazzire, queste sono le cose che mi stranerebbero. Dai. Oh, ok, va appunto. Il punto, no, è che a me piace negli uomini, nei ragazzi, la visione della realtà che hanno, che è veramente differente, e poi comunque... In soldoni che significa? Tradotto in termini concreti, cosa significa? Perché io ho una visione più creativa, un po' diversa, invece l'uomo di solito... È un rozzo. Vede, ma la rozzaggine non mi piace, però... Mi piace proprio quello che sente di solito. Allora, esprimiti reale. Descrivendo la tua allucinazione seduttiva più concreta, cioè cosa ti immagini, cosa vedi, cosa sogni. Tu adesso esci di casa e improvvisamente accade ciò che tu hai sempre pensato e sognato, che pensi e sogni come un momento gratificante. Quale uomo dovrebbe essere e come dovrebbe comportarsi? Sì, certo, incomincia dallo sguardo e poi mi dovrebbe far ridere, perché mi piace una complicità giocosa e con un bel senso dell'ironia. Quindi un uomo che ti fa ridere riesce comunque a darti questa sensazione, va bene. Sì. Giorgia Colli, abbiamo fatto un piccolo ventaglio di ascoltatrici che hanno dato qualche idea. Nel tuo manuale La maionese impazzita, ricetta dell'amore del XXI secolo, edizioni sì. Fermento, mi spieghi poi perché la maionese è impazzita? Trovi comunque dei punti di sintonia rispetto a quello che hanno detto le nostre ascoltatrici? Allora, la prima è sì, è assolutamente ingenua, come appunto aveva detto lei. La verità, la sincerità, mi sembra una sì, cosa fuori dal almeno tempo. Almeno all'inizio proprio no, cioè all'inizio è proprio una questione sì, proprio di attrazione pura, di chimica, non c'è la sincerità, poi magari può venire dopo, ma da ambo le parti. La seconda sono insomma un pochino più d'accordo, nel senso che è vero che c'è un gioco di sguardi ed è vero che a molte donne, anche a me, fa la risata, ridere è una cosa assolutamente coinvolgente che fa scattare alcune, no, anche dinamiche interiori per noi donne, poi magari per gli altri sì, anche questo è un grande luogo comune. L'uomo che fa il buffone, racconta le barzette, alla fine diventa l'amicone delle donne, quello che tutte vogliono perché è divertente, se lo portano in giro quando vogliono andare a caccia di altri uomini, è l'uomo trasturlo, è colui che rappresenta uno schermo, fa vedere lo sono già accompagnate, ma è il giocherellone che in realtà poi si limiterà come i cani di annusare il tartufo, ma non avrai modo mai di vederlo da vicino. Quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Amare significa rinunciare, e quando si rinuncia si è infelici. Ma non ci si può dichiarare innamorati e infelici ad alta voce. Lo si può pensare, certo. A qualcuno di estremamente fidato lo si può anche confidare con sincerità in un momento di debolezza. I più, invece, hanno trovato un metodo assai più elegante per far quadrare il cerchio che inchioda il sentimento al ménage. Mentono. Tutti. Raccontando bugie in continuazione, agli altri e a loro stessi. Consapevoli che l'amore è una delle esperienze più appaganti della vita, sanno che da qualche parte bisogna che ci si metta una toppa. Le bugie dette in amore non sono quasi mai cattive. Quasi sempre si tratta di piccole menzogne, molto più simili alle giustificazioni non richieste che alle panzane mal condite. Ogni innamorato mente sapendo di mentire, ma queste bugie servono alla coppia per preservare intatto il reciproco sogno d'amore. Finalmente le parole che da tempo mi aspettavo di sentire, alla faccia delle gentili signorine che rispetto senz'altro la candida inesperienza, che dico nella sincerità, il rapporto, mostrare per quello che si è, guardarsi dentro, bisogna essere belli dentro. Finalmente Nadia Busata, Nadia Olinda, che è il suo nome d'arte, ci scrive 101 bugie che ci raccontano in amore e sull'amore. Newton Compton Editori. Nadia, buongiorno. Buongiorno. Vi rivelo un segreto: Nadia Busato fa parte dello squadrone dei gruppi della prima generazione, non la sento da anni, la prima volta che la risento da almeno 3 anni. Nel frattempo mi sembra abbia fatto... Ho ancora lo striscione in salotto. Hai fatto 2 o 3 figli, cose del genere. Comunque non voglio sapere e voglio ignorare gli aspetti privati della tua vita, però finalmente sono contento, Nadia. Hai scritto un libro che giustamente segna una pietra miliare nella storia del rapporto, dobbiamo ridefinire, fra uomini e donne. La bugia non soltanto è fondamentale, non soltanto è indispensabile, ma anche salutare e salutifera. Beh, allora c'è da dire 2 cose, innanzitutto. Parlare di sincerità nell'epoca del virtuale è un'assurdità colossale, nel senso che tutti noi abbiamo almeno una doppia vita, una reale e una virtuale. Ma anche le nostre nonne lo sapevano benissimo, quando si facevano il fattore idraulico o chiudevano un occhio sul nonno che andava al casino. Ma ovvio, assolutamente, nel senso, in più all'epoca di Facebook, però capisci che è ancora peggio, anche perché poi ti taggano e questo è un casino nel momento in cui pensi davvero di essere sincero. Sì, ma noi stiamo tornando sul piano concreto, abbiamo capito, Nadia, che ormai tutte le elucubrazioni nelle realtà parallele sono divertenti come esercizio, poi alla fine è la sana, vecchia e decrepita carne che in questo momento ci interessa definire nel rapporto tra uomo e donna. Per quanto si discuta, per quanto ci si arrabatti, per quanto si portino in piazza le icone dei corpi maltrattati, dei corpi vituperati, delle immagini non calzanti, le donne non rappresentate, alla fine è tutto lì, o sbaglio? Ma no, assolutamente direi che non sbagli, e in più esiste una sincerità un po' da grande fratello, cioè quest'idea del io sono sincera, metto al centro la sincerità, noi donne siamo sincere mentre gli uomini mentono, questa è una cavolata quanto il fatto che noi donne siamo sedotte dalla simpatia, dalla mente di un uomo, dalla sua personalità e non ad esempio dagli ormoni. Perché? Ahimè, questa è una realtà che molte volte noi uomini che passiamo per intellettuali con cui facciamo i conti quotidianamente, è vero, è questo, ma è giusto che sia così? Ma forse sì, dopodiché, nel senso, io ho una teoria che quando entro in un posto affollatissimo i potenzialmente trombabili li riconosci a pelle, non è che ci vuole tanto, poi se uno ti avvicina dicendoti di che segno sei, che ore sono, se lo vuoi ci metti pochi secondi per arrivarci. C'era una ricerca che diceva che un uomo quando ti guarda per più di 8 secondi potenzialmente è attratto da te, magari per la vita, chi può dirlo, insomma i primi appuntamenti poi nascondono ovviamente delle enormi tragedie, ogni tanto anche delle sorprese. Nadia, questo libro deriva da una tua rubrica di Posta del Cuore. Sì. Quindi sono donne e uomini che ti hanno scritto e tu hai tratto un comune denominatore da esperienze altrui, quindi non è questa soltanto una tua visione. No, non è soltanto una mia visione, ovviamente, nel senso c'è questa Posta del Cuore che io gestisco da ormai, questo è il 5º anno, ci sono le rubriche varie, la più seguita è sicuramente quella su Grazia, e ci sono le esperienze dei lettori e delle lettrici che tutte le volte mi scrivono un po' perché hanno voglia che io gli dica quello che loro stessi non riescono a raccontare. Ecco, ma qual è il vero filtro? Il filtro ideologico? Perché queste cose che ci diciamo candidamente adesso non possono essere scritte con lettere di fuoco nel nuovo protocollo, nel protocollo condiviso di rapporti tra uomini e donne? Ancora stiamo a... Io ieri sera sono stato 2 ore a parlare con delle donne ancora sul fatto che le veline rappresentano un modello dell'etereo, che le donne non si sentono rappresentate. Ma Perché non spostiamo il problema sul concreto individuale problema della relazione, che mi sembra che sia quello più scottante? Beh, perché sentirsi singoli e da soli è difficile, analizzare se stessi e mettersi al centro della questione è sempre un po' più difficile. È meglio innanzitutto prendere gli esempi dagli altri e poi in qualche modo invece analizzare le proprie storie d'amore leggendole col filtro delle favole, dove tu sei la bella addormentata o sei la principessa e c'è dall'altra parte una strega cattiva. No. Sentiamo Alessandra un attimo. Alessandra, buongiorno. Buongiorno. Vai al sodo presto. Siamo uccisi dai luoghi comuni, cioè la seduzione è completamente morta, cioè siamo tutti a recitare un ruolo, un modellino, non c'è più improvvisazione, non c'è più sorpresa, cioè questa roba si ammazza, sono totalmente d'accordo con... E come se ne esce, cara Alessandra? Perché questo fa da un grande dolore anche a noi che ormai abbiamo un piede nella fossa. Se ne esce, secondo me... Questa è una tecnica seduttiva, eh. Uno dice ho un piede nella fossa e tutti dicono ma no, ancora no, dai... cioè, se ne esce secondo me scardinando questa roba, cioè, essendo... Sì, ma chi deve cominciare? Allora, gli uomini sono ideologicamente dalla parte delle donne, ma sono sempre uomini che in realtà hanno un aspetto repellente. Ma poveretti, ma poverini, io vedo questo mondo, io ho 41 anni, sono... Beh, cosa, è una bella manza, dai. Una bella manza, sono il mio compagno e vedo questi poveretti che si trascinano da una presentazione di un libro, a un aperitivo, a un cocktail. Beh, un po' anche il mio lavoro. E non si prendono però, non si pigliano, non si acchiappano, come se parlassero delle lingue diverse. Perché? Perché la donna o c'ha il modello, o vede l'uomo come un oggetto da controllare o un approvvigionatore di beni di consumo di lusso, e quello è il modello un po' più e scorteggiante, o se no gli vuole far da mamma, comunque lo vuole controllare e quindi se piglia le bugie, le corna e tutto quello. Non sarà che... il problema, Alessandra, che tutti pensano sempre a questa maledetta prolunga nel tempo del rapporto, nessuno si accontenta più di conoscere una persona, bruciarsi con una fiammata o semplicemente farsi due chiacchiere e andarsene a casa. C'è sempre una proiezione temporale e storica nel tempo. Ma la proiezione temporale e storica, secondo me, sai cos'è? È che non si focalizza bene la domanda, cioè tu dall'altro non sai bene quello che cavolo tu che vuoi. Però bravo, sai cosa vuoi? Sempre. Cosa vuoi? Io l'ho detto. Io l'ho detto prima cosa voglio, tu cosa vuoi? Voglio la libertà, voglio un uomo, il mio uomo è così, cerchiamo di essere così, cioè non ci massacriamo, non ci controlliamo. Grande Alessandra, mi sembra chiarissimo. Sentiamo Alessia, così facciamo parlare. Buongiorno, mi sentite? Sì. Io so che cosa voglio da un uomo. Dimmelo. Dunque, innanzitutto penso di sentirmi bella, penso di sentirmi seduttiva e voglio precisamente che l'uomo si lasci irretire da me. Voglio questo. Ad esempio, cioè dici, tutta la fatica che faccio a mostrare e a emanare ormoni, voglio che siano raccolti, non voglio avere davanti una tavola di marmo, questo. Esattamente, innanzitutto bisogna ripristinare il dialogo, questo penso che sia importantissimo. Se io conosco uno e vedo che mi piace, come diceva prima la tua ascoltatrice, se vedo che è scopabile, passamelo questo termine, perché stiamo parlando proprio in soldoni. Guarda che a me non è che scandalizza. Perfetto. È una metafora che rende perfettamente l'idea, alla fine il rapporto è questo. La cosa io in sé voglio. Implica delle pelli che hanno un contatto intimo. Perché noi chiacchieriamo? Perché continuiamo a chiacchierare? Perché qualcosa in noi ci dà il desiderio di sfiorare con un dito quella persona, di sentirne l'odore, il profumo. È chiaro che alla fine tutto ciò diventa e si entra nella sfera della scopabilità. È inutile girarci intorno. Io infatti sono anche capace di sfiorarlo con un dito, ma comunque innanzitutto bisogna ascoltarli. Generalmente io ho sempre qualcosa da rispondere, mi piace molto parlare, mi piace enfatizzare le cose che dicono, mi piace dare importanza alle cose che loro ritengono importanti e magari lo avvicini fisicamente, lo sfiori. E cosa accade nel momento che tu fai capire in maniera esplicita questo tuo interesse? Mi piace un po' farli impazzire, gli fai capire che ci può essere qualche cosa e praticamente sei come un ragno che tesse intorno a questa mosca che è l'uomo una bellissima tela di seduzione. Allora Alessia, visto che intanto saluto Nadia Busato, autrice di 101 bugie che ci raccontano in amore, edizione Newton Compton, saluto tutte le ascoltatrici, quanti mosconi rimangono percentualmente nella rete? Poi chiudiamo. Un numero da 0 a 10? Sì.